Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Dichiaro chiusa la votazione elettronica. Il Senato non approva. Si intendono pertanto approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel senso di dichiarare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi proclamato nella Regione Molise. Colleghi, attenzione a quello che si è consumato. Oggi è successo per Berlusconi, domani può succedere per altri. Il voto a favore della decadenza del senatore Berlusconi non è una scelta rimessa alla nostra discrezione politica, è un nostro dovere. Abbiamo violentato i regolamenti delle Camere introducendo il voto palese. È stata rotta quella che è la valenza e la patrimonialità di un sistema, delle regole. Si chiude oggi impietosamente una storia italiana, segnata dal fallimento politico, dall'imbarbarimento morale, etico e civile della nazione. Ipocriti! Ipocriti! Siete poltronisti! E allora un po' di coerenza, ma soprattutto una cosa che non c'è, la riconoscenza! Ma voi pensate che un uomo come Nelson Mandela, come la Timoshenko, come chiunque abbia dovuto appatire una condanna nel corso della sua lotta politica, sia stato di per sé stesso cancellato dalla storia politica del proprio paese? Voi siete degli illusi. Noi non ci ritireremo in qualche convento. Noi siamo qui, siete qui, staremo qui. Andiamo avanti! Ieri pomeriggio erano accreditati al Senato 500 giornalisti, operatori radiotelevisivi italiani e stranieri, come per una finale di Champions League. Tutti per assistere al voto sulla decadenza di Berlusconi. È capitato quello che tutti si aspettavano: Berlusconi non ha più il seggio in Senato. E come ha detto lui stesso, farà politica fuori dal Parlamento come Grillo e Renzi. Intanto il governo continua il suo cammino, apparentemente più forte, perché da oggi tutto è più chiaro, così ha detto il presidente Letta. Ecco, sarà dura governare con Berlusconi all'opposizione. Mario Secchi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sarà dura perché Berlusconi ha cominciato quella che si chiama traversata nel deserto. L'ha programmata anche lunga, nel senso che non ha fretta per forza di arrivare al voto, anticipato o meno. E Berlusconi, quando è all'opposizione, è una rogna per tutti, guarda, perché ha i parlamentari, ha una strategia molto spregiudicata, come sanno tutti, la sa fare. Insomma, meglio sarà del governo, quasi. Pietrangelo? Buongiorno, era già all'opposizione. Era già all'opposizione, questo governo è nato dettato dalla necessità. La situazione adesso è molto più chiara rispetto alle ambiguità obbligate di prima. La vera difficoltà sta nel fatto che Berlusconi è comunque invecchiato, che Berlusconi ha da fare degli sforzi perfino di immagine. Ieri si è presentato alla sua folla intabarrata in giacca e girocollo, sì, proprio per dimostrare la sua capacità di farsi Superman. Però tutto ha ormai un retrogusto andato, e purtroppo gli italiani, che hanno quell'istinto di guerra civile, quella voluttà di sangue, hanno individuato in lui non più il salvatore ma la preda. La preda, ecco. Ma nel mondo, ecco, nel mondo qual è stata la reazione alla decadenza di Berlusconi da senatore? El Senado italiano ha decidido retirarle el escaño al ex primer ministro Silvio Berlusconi. In Rom über den Ausschluss Silvio Berlusconis aus der Kammer abgestimmt. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat. A moment that many Italians will remember all their lives. The announcement that Silvio Berlusconi was being... Damgasını vuran isimlerden Silvio Berlusconi için kader günü. Hakkında Senato Genel Kurulu'nda azil oylaması... Silvio Berlusconi ne sera plus sénateur italien. Silvio Berlusconi and his supporters call this a coup. But the majority in the Senate say this is democracy. Berlusconi negli ultimi vent'anni è stato il politico occidentale più longevo. Ha incontrato, conosciuto tutti i leader più importanti. Mentre le traiettorie e i percorsi di tutti gli altri leader sono finiti, Berlusconi ha avuto con alterne fortune i rapporti con Bush padre, Clinton, Bush figlio, Tony Blair, Major, Chirac, Sarkozy, Hollande, naturalmente Kohl, Schroeder e per ultima la Merkel. E i commenti su di lui, dalle corna nelle fotografie ai commenti sul fisico della Merkel, si sono alternati, talvolta hanno rischiato anche il ridicolo. Anche se le aperture con Putin e gli attacchi a Sarkozy e Merkel sul loro rigore monetarista oggi sono un po' più di moda di prima. Una longevità politica, insomma, fuori dal comune che solo un paese come l'Italia però ha potuto sopportare, perché solo in Italia può capitare che un leader che vince e perde tre volte l'elezione cade e ritorna. Mario, è veramente una specialità soltanto nostra questa. Sì. Machiavelli Docet, più grande scrittore politico italiano, fu lui. Noi siamo il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, dei bianchi e dei neri, dei berlusconiani e degli anti-berlusconiani, e domani chissà dei renziani e degli anti-renziani. E quindi si può cadere e risorgere. Pietrangelo? Siamo anche la nazione dove una stragrande maggioranza, i cosiddetti moderati, quelli che poi hanno trovato asilo nell'area del centrodestra, non riesce a darsi un progetto politico. E Berlusconi è stato quello che più di ogni altro ha interpretato questa necessità, senza peraltro costruire una casa a questi italiani, anzi, opponendo la sua spericolata avventura tutta individuale a quella che poi è un'esigenza della politica di costruire un destino a collettivo, chi... che non c'è. È dipeso solo dal suo strapotere mediatico e finanziario che ha in più rispetto ai suoi avversari, o questo è stato un elemento in più ma non la natura del successo? Beh, Giovanni, è inutile dire che il denaro in politica è un fattore importante se non fondamentale, però far dipendere tutto da questo sarebbe un errore. La realtà è che Berlusconi in questi vent'anni ha costruito un suo immaginario, ha plasmato in parte il paese e per converso gli avversari si sono definiti per opposizione a lui. Sempre solo l'anti, per l'anti. Infatti la vera sfida, scusa, sono un ulteriore inserto, nasce adesso. Certo. Cioè come definirsi dopo di lui, anche a sinistra, nonché a destra, dove certo, non c'è un progetto collettivo. Ecco, Alessandro Amadori, presidente di Coesis, psicologo della politica, possiamo dire così. Berlusconi ha comportamenti dentro la realtà o fuori dalla realtà? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto. La domanda è molto pertinente, molto intelligente. Io direi che ha comportamenti continuamente al confine fra realtà e desiderio. È sempre sul crinale di un abisso da un lato e di un'ascensione verso il cielo dall'altro. E questo crinale è proprio il crinale tra desiderio e realtà. È specifico di Berlusconi ed è quello che ha consentito a lui di avere così tanto successo da una parte e così tanto clamoroso insuccesso dall'altra parte. Ecco, ma questo suo modo di essere lo ha aiutato, e questo modo di essere l'ha aiutato ad andare per la sua strada quasi coi paraocchi, senza vedere quello che c'era intorno? Assolutamente sì, è questo suo modo di essere che gli ha consentito di essere un leader di primo livello e capace di incidere profondamente sull'immaginario del paese stesso. Tuttavia è questo suo modo di essere che lo ha portato anche all'autodistruzione. Berlusconi verrà ricordato come il personaggio nella storia europea recente degli ultimi 50 anni che ha costruito di più con le sue sole mani e contemporaneamente distrutto di più con le sue sole mani. Ecco, ma dal punto di vista psicologico, che cosa ha di diverso dagli altri in positivo e in negativo? Allora, in positivo ha cinque caratteristiche. Vede le opportunità laddove gli altri non riescono a vederle, prima caratteristica. Seconda caratteristica, coglie gli istinti e le passioni delle persone, sa interpretare il desiderio. terza caratteristica, un altissimo livello di energia personale, ancora oggi a 78 anni è uno dei leader più energetici. Quarta caratteristica, un ottimo comunicatore, letteralmente un seduttore, cioè capace di condurre verso di sé. Quinta caratteristica, capacità di intraprendere, è un leader intraprenditore. È negativo? In negativo ci sono altrettante caratteristiche, è un tremendo accentratore di fatto, quindi non riesce ad avere rapporti paritetici, ha un cattivo rapporto con i suoi istinti, li gestisce male, li coglie negli altri ma li gestisce male in sé, ha un superio autoreferenziale, cioè la norma per lui non è qualcosa di esterno che si interiorizza, ma è qualcosa di interno che viene reso collettivo. Quarta e più grave forse per lui caratteristica, dipende troppo dalla figura femminile, ha un cattivo rapporto con la parte yin, direbbero i cinesi, con il mondo femminile, con il sentimento femminile, e quindi quinta e ultima caratteristica, secondo me non riesce ad avere rapporti affettivi profondi, e questo spiega anche l'alto tasso di tradimento in parte che sta avendo in questi giorni. Evidentemente molte persone non sono entrate in empatia con lui. Ecco, ma c'è una continuità assoluta nel suo comportamento in questi 20 anni, oppure ci sono stati tanti Berlusconi, oppure sempre lo stesso? C'è un'assoluta continuità nel suo comportamento, come c'è un'assoluta continuità nel comportamento di tutti noi. Noi seguiamo rigorosamente un copione esistenziale che ci viene scritto nei primi anni di vita, e Berlusconi non solo non fa eccezione, ma anzi interpreta benissimo questa teoria dei copioni. Lui è il leader drammatico, cioè la cosa che accomuna questi 20 anni è la capacità di drammatizzare tutto, è tutto molto eroico, è tutto molto drammatico, è tutto molto teatrale, è tutto anche molto farsesco in alcuni aspetti, però la cifra di questi 20 anni è la sua capacità di teatralizzare, è l'uomo più teatrale che sia mai comparso sulla scena della politica italiana dopo Mussolini. Grazie Amadori. Grazie a voi. Ieri, parlando di Berlusconi, Mario, tu hai scritto Il decaduto in piedi. Ecco perché sì, questa. Ma perché è decaduto dal punto di vista della carica istituzionale, quindi non è più senatore. L'espulsione dal Parlamento è ovviamente una sua carica drammatica, non a caso Amadori cita queste parole. Però è in piedi perché la sua leadership politica resta. Poi vediamo fino a quanto e come, diciamo, è intaccata da questa vicenda, ovviamente grave. Però non metterei un punto ancora sulla sua storia. È cioè aperta. Il the end non c'è ancora, ragazzi. Ecco, no. Pietrangelo? Berlusconi, che non sa governare, lo ha dimostrato non sapendo governare, è invece straordinario nella campagna elettorale. Adesso ha colto questa possibilità, quella di fare una lunghissima campagna elettorale, anche perché sa perfettamente che non si andrà alle elezioni. Non subito, ma non si andrà per tutta una serie di motivi legati al contesto economico, finanziario, internazionale, e anche politico. Comunque può costruire una rendita in campagna elettorale che sarà travolgente e soprattutto sarà su corde che apparentemente contraddicono la sua ragione sociale, perché sicuramente farà una campagna contro l'Europa molto forte, una campagna contro l'euro molto forte, e svuoterà Beppe Grillo. Ecco, e questa infatti è la prossima sfida elettorale, naturalmente, che vedrà impegnato Berlusconi, come diceva Pietrangelo, l'Europa, un'Europa nella quale i sentimenti anti-euro e anti-tedeschi in realtà sono sempre più forti. Berlusconi si presenta in qualche modo come il politico che già da presidente del Consiglio voleva uscire, qualcuno lo ricorderà, dall'euro, e sorprendentemente nel telegiornale di Enrico Mentana del 22 novembre si svelano dei retroscena abbastanza inediti. Hans Werner Sinn, considerato dal Financial Times il migliore economista tedesco, nonché uno degli uomini più influenti del suo paese. Lo precisiamo perché le sue dichiarazioni di oggi hanno dell'incredibile, e se qualcuno le confermerà potrebbero riscrivere un pezzo della storia italiana ed europea. Sinn, ad un convegno della Süddeutsche Zeitung, dove tra poco interverrà Enrico Letta, ha detto: Berlusconi nel novembre del 2011, quando era premier, avviò trattative in sede europea per fare uscire l'Italia dall'euro, avvalorando quindi quella tesi che vuole che Napolitano abbia chiesto a Berlusconi di farsi da parte su pressione dei poteri forti europei. Vago concetto che di solito include la Germania, la Francia, la Commissione e la Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, quel che avvenne nell'autunno del 2011 è un capitolo poco chiaro della storia recente. Ecco Mario Pietrangelo, è realistica questa ricostruzione fatta nel telegiornale di Mentana? Ha qualche fondamento oppure è fantapolitica? Intanto bisogna dire che Sin è un autorevole economista conservatore citato più volte dal Financial Times, che non è proprio un giornaletto. Primo punto. Secondo punto, la ricostruzione delle date è mirabile, racconta molte cose, il servizio è ottimo, ovviamente, non l'avremmo dato qui, e no, abbiamo un debole per la qualità qui. E secondo me è uno scenario, io non dico che è vero, vero, vero, però è vero almeno una volta, cioè c'è qualcosa sotto a questo punto, perché un indizio, insomma, due... Ma forse ci penso, tre cominciano ad essere una prova. L'indizio si accompagna al fiuto. Dobbiamo considerare sempre l'anima da mercante di quel leader che è stato Silvio Berlusconi e soprattutto la reazione che lui sa scatenare quando si trova all'angolo. Quindi questa è una carta su cui sta cominciando a lavorare. Quindi è molto interessante. Non ultima, mi arriva anche un'indiscrezione, sta accarezzando l'idea di fare una grande mobilitazione proprio in occasione delle europee, lanciando una campagna contro le elezioni europee. Sì, e facendo candidare questa, quelli che saranno soltanto dei traditori, perché non si può andare in un Parlamento dove viene deciso proprio l'omicidio dell'Italia. Questo è il ragionamento in sintesi. Un altro aspetto sulla strategia di Berlusconi, che lui ha convocato tutti per l'8 dicembre. L'8 dicembre è il giorno delle primarie del PD. Lui sta cominciando già la sua tattica di marcamento e smarcamento. Marcamento di Renzi e smarcamento dalla politica del palazzo. Quindi, come vedi, vi è uno schema di gioco che sta applicando, e quelli che stappano lo champagne, se io posso dare un modestissimo consiglio, evitino, perché Berlusconi all'opposizione è pericolosissimo, è temibile. Meglio la gazzosa. Assolutamente. Un po' di gazzosa, ecco. E allora, dopo la pubblicità, noi affronteremo il problema dall'altro punto di vista, dal punto di vista di che cosa cambia nel PD in conseguenza di questa decisione di Berlusconi. Ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, SMS 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. Comunque, in questo contesto economico veramente drammatico per gli italiani, anche per Renzi, dopo le primarie, se vincerà, ci sono le elezioni europee. E anche nel PD, come è già stato nel PDL, lo abbiamo visto con la nascita del nuovo partito, ci sono tensioni complesse, forze centrifughe. E a leggerle con allegria, ascoltate questo pezzo di Alessandro Robecchi sul Fatto, interpretato da Sara Tardelli. Scusate lo sfogo. Scrivo che non mi piace Renzi e sei cuperliano. Cuperlo non mi convince, sei civatiano. Ma avrei da ridire. Allora sei grillino, eh? Ma manco per niente. E dillo che stai con Nichi, ma veramente... Ah, sei per le larghe intese? Ma non offendiamo, non mi piace il culo, il glamour, il frufru. Allora sei vecchio. Mi piace la parola diritti, come sei vetero. Non mi piace però il populismo. Allora sei casta, sei zombie, sei morto. Ma naturalmente guarda che non mi piacciono nemmeno il furto e lo spreco di denaro pubblico. Ecco, sei demagogico, ideologico, o pittelliano, oppure populista, oppure induista ascendente interista. Stai con D'Alema? Anzi no, bersagnano con la luna in Sagittario? Civatiano del settimo giorno? Anzi, renziano del dissenso o lettiano del consenso? E vieni pure dai ghiacci sovietici e ti sei anche un filino rotto i coglioni? Mario, a parte la... Era bello, divertente questo, brava, questo pezzo che dipinge, lo ripeto, di Alessandro Robecchi del Fatto, che dipinge comunque una situazione complessa che anche il PD deve affrontare, no? Sì. Mi sembra. Devono trovare la nuova identità. Guarda, è una sfida durissima per il Partito Democratico, perché la crisi del centrodestra derivante dalla declinante leadership di Berlusconi coinvolge anche loro, e come vedi i risultati dei congressi provinciali non hanno dato una vittoria nettissima a Renzi, cioè ci sono lì almeno due o tre anime, come poi abbiamo visto dalla recitazione del pezzo del fatto da parte della Tardelli, che si stanno scontrando. E sarà interessante vedere come si ricompongono, Pietrangelo. Se si ricompongono. Se posso usare una formula semplice, ne ha facoltà. Berlusconi che è popolo senza potere, si specchia in una sinistra che è potere senza popolo. Sì. Ed è un linguaggio, un riferimento, un pescare, stilemi, luoghi, tic, che fanno riferimento ad una struttura di potere che poi non ha una corrispondenza con la realtà. Tant'è vero che quel pezzo di Rebecchi descrive dei linguaggi da, come si chiama, happy hour. Tipiche discussioni da bar di un mondo che non svilupperà mai consenso, ma conformismo. E questo naturalmente lo vedremo. Corri, corri come un gatto, da soletto la fantasia. Corri come la tua amica matta, dalla luna di una nuova bugia. Corri come corre il vento, e se la gomma te la strappa una spina. Pietrangelo. E questa di canzone ce la illumini? Questa di canzone si illumina semplicemente immaginando un'amica matta e di una gonna che si strappa incontrando una spina, e poi sappiamo che le spine sono sempre preludio di meravigliose rose. Che spalancano profumo, e quindi una buona giornata ancora. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms e le bolle. Sono sommerso dalla Nutella di buttafuoco, non so se ce la farò. Allora, e che cosa bolle oggi? Nutella tosoro. Nutella veltroniano, mi sembra. No, è perché salutiamo Walter. Perché tu non hai presente che cosa sono le valentine in giro per le strade. Lascia stare. Anche col freddo. Lascia stare. Vabbè, non esageriamo, andiamo a Parigi a vederlo. Esatto. Larghe intese, no, andiamo a Berlino, perché le larghe intese sono state varate. Si attende solo il referendum. Ne abbiamo accennato ieri, però è interessante perché saranno chiamati a una consultazione che si terrà via mail 470.000 iscritti della SPD. I risultati ci saranno il 14 dicembre, e da quel momento, diciamo, Merkel, la cancelliera, sarà pienamente operativa. E quindi è stata comunque una trattativa lunga, intensa, dettagliata, seria. Alla tedesca. A noi possono piacere o meno, però bisogna dire che le cose le fanno con una certa meticolosità, almeno questo. Poi se guardiamo il dibattito interno, anche lì c'è il caos, che devono spendere 23 miliardi ma non sono ancora sicuri delle coperture. però sono bravi. Abbiamo un sms. Ieri ho sentito parlare di un'ipotesi secondo la quale Berlusconi non potrebbe fare la campagna elettorale. Vorrei sapere se è vera e quali condizioni presuppone per verificarsi. Credo che non sia... Ma dunque non è proprio così, nel senso che allora Berlusconi ovviamente a marzo dovrebbe scattare, eventualmente, bisogna vedere se lo accolgono, ma credo di sì, l'affidamento ai servizi sociali. Ha delle limitazioni negli spostamenti eccetera e così via, però non è che gli levi la libertà di parola. Quindi la campagna elettorale in questo senso può farla. Troverà una forma nuova. Salamini. Già ride. No, che ride. Sì, già ride, guardalo. Immagino il traffico telefonico. Siccome sappiamo tutti che c'è un pontefice che chiama continuamente al telefono. Lo so. E sappiamo che probabilmente già oggi farà una telefonata. Perché? Non ci credo. Sì, perché leggendo il Corriere della Sera c'è una bellissima intervista di Tommaso Labate a Tommaso è bravissimo. Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi, che fa appello a Papa Francesco, mi riceva e ascolti la tragedia di Silvio. Siccome il giornalismo è letteratura e siccome la letteratura deve essere giornalismo, deve essere didascalia proprio su racconti deliziosi, altrimenti ce li perdiamo, io affiderei al di là dell'appello questo dialogo che è perfetto per raccontare la psicologia delle persone, della situazione. Prima Madori ci ha fatto una bellissima lezione su quello che è Silvio, però c'è un dettaglio in questa intervista. Nei dettagli sono i del diavolo. Anche dire. Berlusconi pensa di Alfano quello che pensa lei, e sappiamo che lei di Alfano pensa il peggio. Sì. Sentite la risposta. Silvio, per fortuna, ha un cuore immenso. Riesce sempre a perdonare i suoi figli anche nelle situazioni più critiche. Aristotele alla mano, se ne deduce che Alfano è figlio di Berlusconi politicamente, quindi il tradimento non c'è stato, e sicuramente questo significa che il famoso spacchettamento riuscirà, perché vabbè, verrà perdonato. È bellissimo, perché concordata, l'analisi, diciamo, l'analisi sillogistica di Buttafuoco applicata alla politica conduce a delle conclusioni abbastanza disastrose. Però ha delle conclusioni che avevamo anche immaginato, no? Ci fosse un accordo. Vi prego, cosa pensa del nuovo centrodestra? Dice: sembra una società di autonoleggio. Ecco, lasciamo perdere, andiamo all'isola. L'isola ovviamente era il grande Regno Unito, la grande Inghilterra. Allora, la Gran Bretagna hai tradito la tua isola per la perfida Albione, ho due isole e due fiumi. Il primo dei cinque passi. Il primo fiume è il Tirso, il secondo è il l'isola Tamigi. L'isola è la tua Sardegna. Noi poi non siamo isola perché siamo un'altra storia. Certo, la Sicilia non è isola. La Gran Bretagna sta restringendo le politiche migratorie per ridurre i flussi da Romania e Bulgaria. Quindi il problema è l'est. Stessi timori per Francia e Germania, segnalo nella chiave delle campagne elettorali europee, per cui la politica cambia sotto l'influsso di questa crisi ovviamente anche sotto la spinta e la crescita dei partiti della destra europea. Piano, e quindi andate piano, il fondo è sdrucciolevole, piano, perché correte, piano, c'è la curva della morte, c'è il burrone, piano, peggio per voi, vi dico che si scivola. Peggio per voi, il grandissimo Albertone. Perché abbiamo messo il vigile? Perché c'è il cambio al comando dei Pizzardoni a Roma, tema fondamentale della politica capitolina. Segnatevelo sempre, ricordatelo a memoria. Bene, è stato destituito il vicecomandante Donatella Scafati, al comando va Raffaella Modaferri. E noi torniamo ancora a parlare di politica europea. In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi. Conclusione di un'intera vita dedicata. Era goodbye Lenin, tu dirai, ma che c'entra? Quello era Berlino. Sì, però noi andiamo dove? Al Cremlino, perché stamattina sulle prime pagine di un bel po' di giornali esteri c'era questa notizia che secondo me è meravigliosa. Molto divertente. E cioè che il valigione gigante della campagna natalizia di Louis Vuitton, un grande produttore del lusso mondiale, esposto nella Piazza Rossa, è stato levato perché creava un certo imbarazzo, era troppo grande, non si vedeva più, oscurava la tomba di Lenin, il mausoleo di Lenin. Ma si può andare in regione con la pistola alla cintura? Sì, è possibile. Chiedete a Remo Sernagiotto, consigliere del Veneto. Lui può, ma dice che non lo fa più. È successo. Lo faceva. È successo pure questo. E allora noi non resta che volare. Volare. Oh, cantare. Vinile, vinile e giornale, c'è un bellissimo articolo oggi nella sezione Management del Financial Times, molto bello, che dice la seguente cosa. Quindi noi abbiamo una speranza, caro Giovanni e caro Pietrangelo, che siccome è rinato il vinile e nel 2012 si sono venduti più dischi che dal 1997 all'altro ieri, beh, si forse anche il vinile. Esatto, e allora forse anche i giornali di carta non moriranno. Ritorneranno. Infatti, e... come ci hanno raccontato, si comprano dappertutto. Vidal. No, ma la regia non ha capito niente. Non è questo, non è il bagno schiuma. Vidal. Vidal. Quando il rigore si fa duro dell'Arturo. Ah, eccolo Vidal. E qui è Vidal. Vidal ha fatto 3 gol ieri. Ha fatto, ha tenuto la Juventus in Champions League. Sti juventini. Vabbè, però, ragazzi, ieri Vidal ha fatto grandi cose, quindi giusto così. Le nostre bolle finiscono in football. E dopo la viabilità parliamo di televisione di qualità, media, cinema, insieme al professor Simonelli. Per raccontarci che cosa vi è piaciuto ieri sera potete chiamare 800 24 00 24 349 238 6666. La notizia in 3D era curata da Sara Tardelli. Mix 24 800 24 00 24, numero SMS 349 238 6666 per chi volesse parlare con noi e il professor Simonelli di che cosa ha visto di interessante ieri sera in televisione. Professor Simonelli, dov'era il canone ieri sera? Dunque, ieri, come tutti sanno, era una giornata particolare, come si dice, però poco canone direi, perché tutte le reti che hanno deciso di seguire con una specie di maratona la lunga giornata al Senato, a partire dal primo pomeriggio fino a sera e poi con i commenti serali, mi sembra che abbiano seguito una strada che è un po' un vicolo cieco, perché in realtà tutto si è svolto secondo una linea molto prevedibile, e quindi insomma con un'assenza di notizie si è preparata tutta questa giornata per avere una notizia che già si conosceva in anticipo, che è un po' la negazione dell'informazione, cioè 24 ore di notizie per una non notizia, questo insomma, no, una cosa che si sapeva, perché tutto è andato secondo uno schema prevedibile. Credo che l'unica forse novità, l'unica deviazione da uno schema prestabilito è stato a un certo punto l'intervento del senatore Bondi, quando ha detto ragazzi smettiamola perché tanto sappiamo come andrà a finire, quindi apprezzo il vostro impegno, però andiamo a votare perché sennò qui non finiamo più e non serve a nulla. Questo è un po' quello che succede oggi un po' nella politica. Anche la scelta di fare il passaggio dal Senato a via del plebiscito, dove la sede insomma di Berlusconi teneva il suo discorso, in realtà mi ha fatto un po' sorridere, perché erano le stesse facce, gli stessi discorsi, le stesse bandiere, gli stessi atteggiamenti, le stesse dichiarazioni che avevo sentito la famosa domenica, che mi pare fosse il 4 agosto, se si tenevano le magliette con le maniche corte, si insomma niente, le sciarpe, era la stessa cosa, era persino buffa, no, questa cosa, era quasi una replica della domenica agostana fatta con il freddo di ieri. Professore, allora diciamo che il canone ieri sera è rimasto a casa, la ringrazio. In questi giorni a Torino, come molti sapranno, c'è il Torino Film Festival. Paolo Virzì, regista, direttore del festival. Ecco, quali sono gli ingredienti principali del suo festival? Da una parte abbiamo cercato di mantenere viva l'anima con cui è nato questo festival negli anni Ottanta, quindi orientato ad esplorare soprattutto i nuovi talenti, e infatti la selezione del concorso è proprio destinata alle opere prime e seconde. Dall'altra abbiamo cercato invece di espandere lo sguardo verso anche un cinema popolare di qualità, togliendoci delle curiosità, per esempio che cos'è che fa ridere o piangere gli spettatori dei paesi europei, che cosa vuol dire adesso la nuova narrazione. Ecco, ma che cosa c'è di più di lei in queste scelte? Proprio già un pochino l'ha detto, nel ridere, il piangere, la leggerezza del racconto. Ma un pochino anche abbiamo cercato di dare un tono proprio all'atmosfera del festival, di un festival che fieramente si diceva severo e sobrio, sì. Severi e sobri lo siamo rimasti, però con il tentativo di essere anche un pochino più espansivi, un po' più allegri e festosi. Cinema e televisione oramai sono due facce sempre di più della stessa forma e modalità di racconto, infatti prodotti televisivi vincono i festival cinematografici. Voi in che modo tenete conto di questa realtà? Ma che sta succedendo, specie nei paesi anglosassoni, specie in America, quello che successe nella fine degli anni 60, primi 70 con la New Hollywood, cioè che laddove le major produttive sembrano dover ripetere per forza lo stesso schema archetipico narrativo di qualcuno che salva il pianeta, invece ci si può permettere un racconto controverso dove buoni e cattivi sono più ambigui, quindi da dove c'è spazio per narrazioni spinose, complesse, adulte per autori eccellenti, certo, come quelli che adesso la nuova narrazione televisiva sta radunando. Ecco, ma l'obiettivo da raggiungere sono i 100.000 spettatori? Ma questo lo ha detto un assessore, non io. Beh, sarebbe bello, però sarebbe una bella cosa. Ma sicuramente siamo partiti molto bene, abbiamo aumentato. Come sono andati i weekend molto... incassi? Beh, il primo weekend è stato un più 30% rispetto Accidenti. All'anno scorso. Ah. Torino riscopre la sua storia profonda di essere città che quasi le ha fondato il cinema. Evidentemente, da una parte è vero quello, poi dall'altra è vero che è un vero e proprio festival metropolitano, nel senso che nonostante ci siano i tanti appassionati che arrivano da tutta Italia e da tutto il mondo, c'è uno zoccolo duro del pubblico che è proprio il pubblico della città, lavoratori, famiglie, studenti, che addirittura prendono le ferie per la fine di novembre per venire a vedersi il film e che sono molto competenti e molto esigenti, molto e a loro questo. Non gli puoi rifilare fregature come spesso invece capita nei festival dove tra le pieghe dei palinsesti si annidano i film subdoli, cioè i finti belli. Senta, ma da giudicato a giudicante cos'è che cambia? Ma qui in realtà io non è che giudica la giuria. Vabbè, io però insomma scegliendo si giudica. E faccio pratico una delle parti che di me stesso che ho sempre tenuto viva, che è quella dell'amante dei film, di quello che si innamora dei film degli altri. Bene, allora tanti auguri e grazie. Grazie a lei. Mario, da come lo racconta viene voglia di andarci a vedere il festival a Torino. Che dici? Ma sì, forse sì, perché sa che è meglio di quello del Festival di Roma, no? Che dici? Ma sai, i festival sono sempre adatti a uomini chic e femmine pettate, sì, anche quelli della letteratura. Poi non credo che Mantova sì. Tu sì. No, chi c'è? No. Ma non ci hanno invitato noi due. No. Non sappiamo scrivere. Tu che sei letteratura, no? No, neanche tu però. No, Senti, ieri sera a proposito di dove era il canone, mi piace segnalare un SMS. Ieri sera mi è piaciuto il boicottato Paolo Barnard che stava alla gabbia, è molto bravo, è una persona che vale la pena di ascoltare anche se è forte e anche un po' estremista. Oggi la storia di Mix 24 a cura come sempre di Marina Milone, dedicata alla figura di Giovanni XXIII, il Papa Buono, subito dopo il giornale radio.